La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Bicondo. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 1 agosto 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E beh, in questa puntata di Caccia al Fotone parleremo di un argomento molto spinoso, un argomento di cui si è sentito parlare molto sia sui giornali, sia sulle televisioni, sia sulle radio. Parleremo fondamentalmente di H1N1, la cosiddetta influenza suina. E ne parleremo col dottor Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Stefano, all'inizio di trasmissione noi abbiamo queste 100 parole iniziali per descrivere la puntata e quindi in 100 parole mi potresti descrivere secondo te che cos'è H1N1? Sì, l'H1N1 è un virus influenzale che sta circolando abbastanza in modo sostenuto in Europa e in tutto il mondo in questi giorni. È un virus influenzale che si è originato nei maiali in prima battuta, dopodiché è riuscito a fare il cosiddetto salto di specie e quindi è riuscito a innescare la trasmissione uomo tu uomo, e dopo anche e soprattutto alla enorme mobilità delle persone, delle nostre società odierne, è riuscito a propagarsi con una velocità sconosciuta nelle epidemie passate in tutto il mondo e in tempi molto brevi. Infatti a distanza di nemmeno 4 mesi si registrano ormai casi di influenza in tutto il mondo, e questo pone un serio rischio per le popolazioni di tutto il mondo e un serio problema per tutte le agenzie che si debbano occupare in qualche modo della sanità, della prevenzione e del controllo nei vari stati nazionali. Benissimo Stefano, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi cominceremo davvero a parlare di H1N1, parlando fondamentalmente di un articolo uscito qualche giorno fa su BMC. Stefano, con te vogliamo parlare, come già precedentemente detto, di un lavoro che è uscito qualche giorno fa proprio su BMC. La firma di questo lavoro è tua, Stefano Merler, di Marco Aielli e di Caterina Rizzo dell'Istituto Superiore di Sanità. Per iniziare, mi descriveresti che cosa descrive questo articolo che è uscito pochi giorni fa e che è un articolo che sta facendo già molto discutere? Ma in questo articolo essenzialmente valutiamo se c'è la possibilità di ottimizzare l'uso dei farmaci antivirali durante una pandemia. E quello che probabilmente non è stato molto ben recepito dalle persone che stanno dibattendo veramente in tutto il mondo in queste ore su questo articolo è che questo articolo non tratta della parte clinica dell'uso degli antivirali. Infatti l'antivirale in prima battuta deve essere usato per curare essenzialmente i casi più gravi e questo è fuori discussione, e non c'è da prioritizzare nulla a questo riguardo. Tutti quelli che svilupperanno sintomi di una certa gravità verranno trattati con il farmaco antivirale, perché questo è lo scopo per cui sono nati questi farmaci. Ma questo articolo in realtà si occupa di matematica. Certo, noi abbiamo sviluppato dei modelli di simulazione di come dovrebbe propagarsi la pandemia in corso e abbiamo analizzato quali possano essere le efficacie di alcune strategie di intervento e in prima battuta, siccome allo stato attuale in assenza di vaccino l'antivirale è l'unica risorsa che abbiamo farmacologica per contenere l'epidemia, abbiamo focalizzato il lavoro sull'efficacia del trattamento antivirale tramite sempre simulazioni di tipo matematico. Senti Stefano, all'interno del lavoro voi identificate un modello che è il cosiddetto SAIR model, che come ci dicevamo nel fuori onda è un modello che viene utilizzato moltissimo. Senza descrivermelo dal punto di vista matematico, riusciresti a descrivermelo dal punto di vista concettuale, cioè che tipi di parametri si inseriscono all'interno di questo modello? Perché la matematica va con modelli e quindi con parametri da inserire all'interno delle equazioni. Certo, allora il modello SAIR è un modello molto semplice, se vogliamo, di descrizione di una, dell'evoluzione temporale di un'epidemia e è basato sul fatto che si può, in un modo anche molto grezzo se vogliamo, ma suddividere la popolazione in alcune classi, la classe degli individui che non sono ancora stati infettati, la classe di quelli che sono stati infettati ma sono ancora nel loro stato di latenza, la classe degli individui infettati e in grado di trasmettere l'epidemia e la classe dei recovered, cioè quelli che hanno avuto la malattia e sono in qualche modo guariti e comunque usciti dal processo di diffusione epidemico. Il modello SAIR è un sistema di equazioni differenziali che permette di descrivere la dinamica di queste quattro classi della popolazione nel corso dell'epidemia. E i parametri fondamentali su cui si basa sono il tasso di infezione, il periodo medio di latenza, cioè il periodo in cui un individuo infetto resta latente, non ha ancora sviluppato i sintomi della malattia e non è in grado di trasmettere l'epidemia, e il periodo di infettività, cioè quanto a lungo un individuo resta infetto nel corso della malattia. Voi la popolazione la dividete tra virgolette in tre categorie: bambini e giovani, adulti e anziani. E all'interno di questo lavoro analizzate lo sviluppo della malattia all'interno di queste tre categorie. Se mi potessi riassumere qual è il tipo di sviluppo di questa malattia, che cosa mi diresti? Ma allora, dato per scontato che non c'è nessuna variabilità genetica che rende differente un giovane da un adulto o da un anziano, da un punto di vista però della trasmissione epidemica, queste classi si comportano in un modo completamente diverso, essenzialmente a causa del comportamento che è diverso, perché pensiamo ad esempio a quanti contatti può avere uno studente di 18 anni giornalmente con altri individui coetanei o non coetanei, non importa, e pensiamo viceversa, sempre in media, cerchiamo di fare questa astrazione, a quanti contatti può avere un anziano. Allora, è evidente che un anziano in media avrà un numero di contatti minore e quindi questo induce che la probabilità che gli anziani contribuiscano alla trasmissione epidemica è molto minore rispetto ai giovani, ed è per questo che noi abbiamo analizzato il comportamento dell'epidemia in queste tre classi che hai giustamente considerato tu all'inizio, e proprio per verificare poi quali sono gli effetti ad esempio del trattamento antivirale su queste tre classi, che siccome si comportano da un punto di vista epidemico in modo diverso, allora la domanda che ci siamo posti è: ma da un punto di vista del trattamento, o meglio del contenimento dell'epidemia, trattare queste diverse classi avrà anche un effetto diverso? E questo è il cuore e la domanda più importante che ci poniamo noi nell'articolo che hai citato precedentemente. Peraltro la cosa interessante che andate ad analizzare in questo articolo e la differenziazione fra la profilassi e la cura della malattia attraverso il vaccino, che peraltro ancora non è disponibile. Qual è la differenza che andate a analizzare? Cioè, quali sono i vari risultati che riuscite a vedere da questa modellizzazione della popolazione umana? Allora, dammi un minuto per spiegare quali sono gli usi che può avere l'antivirale. Certamente. Ce n'è uno clinico, nel senso che se un individuo sviluppa dei sintomi gravi, l'antivirale può contribuire a un decorso, diciamo, più semplice della malattia. Questo tipo di utilizzo del farmaco antivirale non è considerato in questo lavoro, nel nostro lavoro. Cioè, l'antivirale verrà dato a tutti quelli che sviluppano sintomi gravi, indipendentemente dall'età o da altre questioni, perché questa è una questione di salute, punto, e non è in discussione. Poi ci sono altri due utilizzi che può avere l'antivirale. L'antivirale può servire a trattare quei casi magari meno gravi, che magari da un punto di vista clinico non necessiterebbero comunque il trattamento. Però l'uso dell'antivirale su questo tipo di pazienti può permettere di rallentare la diffusione dell'epidemia. E rallentare l'epidemia significa guadagnare tempo finché non ci sarà disponibile un vaccino da usare in massa o su categorie appropriate quando il vaccino sarà disponibile. E infine c'è un terzo uso, che è quello profilattico, cioè dare il farmaco antivirale a tutti quegli individui che sono a contatto con un individuo infetto. Infatti in questo caso il farmaco antivirale può permettere, diciamo, in termini matematici aumenta la probabilità che questi individui, pur venendo a contatto con un individuo infetto, non si infettino loro, e quindi anche questo, l'utilizzo profilattico è un modo per diciamo rallentare il corso dell'epidemia. Nel lavoro noi analizziamo in dettaglio l'efficacia di questi ultimi due usi dell'antivirale, cioè il trattamento dei casi, lasciatemi dire, non gravissimi, e l'uso profilattico dei contatti in famiglia. Va da sé che vanno trattati prima le persone tra virgolette infette e poi le persone che ancora infette non sono. Qui diciamo, in caso una nazione non abbia a sufficienza antivirali sia per il trattamento che per la profilassi, è abbastanza evidente che la priorità sarà il trattamento, e la profilassi può anche non essere fatta se non ci sono risorse per farla. All'interno di questo lavoro, come dire, consigliate più il trattamento dei giovani oppure il trattamento degli anziani? Perché questa è una cosa che andate ad analizzare sia nella parte iniziale sia nella parte finale. Chi conviene trattare prima per permettere di non far diffondere questa pandemia nel giro di poco tempo? Allora, ci sono considerazioni da fare. Se noi guardiamo al numero totale di casi a fine epidemia, cioè non consideriamo gli effetti della mortalità, il modello dice in modo abbastanza evidente che il trattamento degli anziani, e ribadisco, non dei casi gravi, ma solamente dei casi lievi, non è di alcun aiuto. E questo per il motivo che dicevo prima, perché gli anziani trasmettono molto meno l'epidemia avendo molto meno contatti nella popolazione. E quindi, se guardiamo in definitiva al numero totale di casi a fine epidemia, il risultato è che vale la pena trattare maggiormente i giovani. Diverso è il ragionamento se guardiamo alla mortalità, perché nonostante gli anziani trasmettano meno, possono anche essere quelli che invece, una volta infetti, sviluppano le maggiori complicanze. E quindi da questo punto di vista quello che è importante fare è valutare quello che si dice in inglese il case fatality rate, cioè il tasso di mortalità dei casi, e guardarlo per età, perché può succedere che muoiano per questioni, diciamo, di struttura dell'organismo, insomma, perché gli anziani possono già essere aggravati da altre patologie o quant'altro. Può darsi il punto che una grossa riduzione della mortalità si possa ottenere trattando gli anziani piuttosto che i giovani. E noi abbiamo guardato, facendo delle assunzioni su quello che è successo nelle scorse pandemie, e nello specifico quella del 18, la spagnola, e quella del 68, e abbiamo visto in effetti che pattern sono completamente diversi, nel senso che nella pandemia del 18, del 1918, l'eccesso di mortalità più significativo si osservò nei giovani, il che significherebbe che sarebbe opportuno trattare i giovani con priorità, ma nella pandemia del 68 abbiamo osservato il pattern opposto, e quindi il modello avrebbe suggerito di trattare con una certa priorità gli anziani. Quindi la situazione è veramente molto fluida, anche perché stime del tasso di mortalità per età ancora non ci sono, e quindi insomma la situazione va monitorata e va controllata. Che Sì, questo rende ancora più difficile il fatto di modellizzare questa situazione, cioè la vostra difficoltà di fare un paper proprio su una malattia di cui stime di mortalità in realtà non ce ne sono. Ed è anche prematuro parlare probabilmente di tassi di mortalità, perché una mutazione del virus, adesso che l'infezione comincia a diffondersi in milioni di individui, la probabilità che ci sia una mutazione è molto alta, e quindi come muta il virus è totalmente ignoto, e quindi parlare di mortalità è veramente prematuro, credo. Qual è stata in realtà la vostra difficoltà di stilare un paper proprio su questa malattia, in cui i dati, come abbiamo detto, sono molto fluidi, il tasso di mortalità non si conosce e la trasmissione, ci sono dei dati ma questi dati sono in continua evoluzione, il virus è un virus che sta, o almeno che potrebbe mutare? Fammi rispondere un po' da filosofo, se vuoi. Lo scopo dei modelli matematici sulla diffusione di epidemie è duplice. Si può fare un'analisi retrospettiva di quello che è successo, e in questo caso si richiede ai modelli di essere particolarmente precisi e di descrivere in modo dettagliato quello che è successo, ma evidentemente non è questo il campo. Noi siamo nel secondo utilizzo dei modelli in questo momento, e cioè quello di fare previsioni di quello che succederà. Purtroppo nessuno ha la sfera di cristallo e il ruolo in queste situazioni dei modelli matematici di diffusione di epidemie è di proporre scenari. Proporre scenari con tutta l'incertezza del caso, perché come dicevi tu alcuni parametri non sono ancora noti, però non possiamo nemmeno aspettare la fine dell'epidemia per stimare questi parametri e capire cosa è successo senza intervenire prima. Allora qua si tratta di dare delle indicazioni, infatti noi non siamo mai categorici nel proporre i nostri risultati. Noi proponiamo degli scenari. Se l'epidemia evolve in un certo modo, sarebbe meglio fare una cosa, ma non è detto che se l'epidemia evolve in modo un po' diverso non sia meglio fare completamente l'opposto. Io mi rendo conto che questo è un limite, però è anche l'unica cosa che si può fare in questo momento, e dopo aspetterà i decisori prendere le decisioni corrette o provare a prendere le decisioni corrette, che non saranno facili. La probabilità di commettere degli errori anche da parte di chi gestisce da un punto di vista medico la situazione è altissima, e quindi io capisco anche tutte le preoccupazioni di chi si occupa da un punto di vista politico di gestire questa situazione. E purtroppo, comunque, ribadisco, noi siamo nella situazione di dover fare delle previsioni, e di fare delle previsioni basandoci soprattutto su quello che è stato osservato nel passato, perché di quello che sta succedendo adesso c'è molta incertezza, e questa incertezza si riflette anche nei modelli, quindi noi più che proporre diversi scenari non possiamo fare. Stefano, ti ringrazio per la partecipazione, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale. Poi torniamo in studio e poi sentiremo la dottoressa Caterina Rizzo dell'Istituto Superiore di Sanità, che è un altro degli autori di questo lavoro. Je le vois arriver à la porte. Il se trompe 5-6 fois de code. 424B1, il se rappelle plus très bien. Il est saoul comme un coin, il faut qu'il s'en vienne du chemin. Troisième porte à droite, deuxième étage à gauche. Ça l'énerve, ça le saoule. Heureusement toi t'es là pour qu'il les foules. Il a l'alcool mauvais, comme toutes les autres journées. L'envie de te frapper. Ça lui donne la puissance qu'il n'a jamais trop eu. Ça lui donne la confiance de sentir au-dessus. Son grand-père le battait au football. À l'école, prof le détestait, il avait aucun ami. Depuis déjà tout petit, c'était lui le raté. Maintenant c'est toi qui fais. Samedi soir, 5h-4, il se présente à la porte de la porte. Tu arrives en courant, tu l'ouvres en pleurant. Il te jette en hurlant. T'as mis 10 fois trop de temps. Il entre en titubant. Il renverse un troll de vieux rouge, ça lui grogne. Dans son œil, la violence, dans les tiens, l'innocence. Son cœur balaye les murs. Tu poses sur sa ceinture. Titube pour la prendre et s'avance en souriant. Oh, maman. E bentornati in studio, adesso stiamo andando ad ascoltare il secondo autore di questo lavoro, che è Caterina Rizzo dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Effettivamente, qual è stata veramente la difficoltà nello studiare questo virus e nell'andare ad analizzare tutti i vari dettagli che poi sono stati analizzati nel lavoro? Allora, la difficoltà principale è nata dal fatto che ovviamente una pandemia non si verificava dal 1968 e quindi dati a disposizione non ce n'erano molti, e quelli che c'erano erano chiaramente viziati da un problema legato al fatto che all'epoca la sorveglianza non funzionava bene come funziona oggi, quindi magari tante informazioni non erano state raccolte, non erano disponibili, e quindi si sono utilizzati dei dati che a volte in certe occasioni non erano ideali, diciamo, potevano non sembrare, non essere dati consistenti. Fortunatamente però qualcosa ci è arrivato, anche addirittura dal 1918, perché in alcuni paesi dove la cultura della segnalazione dei casi e della sorveglianza epidemiologica dei casi era già presente all'epoca, come paesi del nord Europa, come per esempio la Svezia o l'Inghilterra, hanno raccolto dei dati di mortalità e di incidenza della pandemia del 18, e attraverso questi dati che sono stati resi disponibili agli scienziati del mondo è stato possibile cercare di capire come si sarebbe potuto comportare un eventuale nuovo virus pandemico ai giorni nostri, adattandolo chiaramente alla demografia attuale del mondo e del paese. Caterina, ti blocco un attimo perché voglio chiedere una cosa. Perché si fa sempre riferimento alla pandemia del 18 quando si parla di questa pandemia? Si fa riferimento fondamentalmente alla pandemia del 18 perché dal punto di vista epidemiologico della distribuzione dei casi per fascia di età sembra che questo virus sia molto simile in termini di distribuzione dei casi per fascia d'età a quello della pandemia del 18. Mi preme sottolineare però che non ha le stesse caratteristiche di severità. Questo è un virus molto più buono, molto meno patogenico, e quindi questo ci conforta in questo senso. Non deve però questo togliere l'attenzione nei confronti di questo virus, perché in ogni caso non sappiamo se, continuando a trasmettersi così come si sta trasmettendo adesso, potrebbe acquisire delle caratteristiche più diciamo virulente, che fanno sì che possa dare dei problemi maggiori rispetto a quelli che sta dando adesso. Quindi ecco perché è molto importante continuare a monitorare il fenomeno. Caterina, come ogni lavoro, alla fine di questo lavoro c'è una lista di articoli, di paper a cui avete fatto riferimento. A quale tipo di letteratura avete avuto accesso per lavorare su questi dati? Allora, la letteratura disponibile è molto varia, come non so se si sa, ma negli ultimi anni c'è stata moltissima spinta verso la preparazione alla pandemia, anche con la circolazione di quell'influenza aviaria, no? Con l'H5N1 che si trasmetteva dagli animali all'uomo, soprattutto dal pollame all'uomo. Diciamo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha spinto molto perché si producesse la letteratura in questo senso, e quindi questo ci ha permesso e ci ha aiutato anche a fare delle considerazioni più approfondite riguardo a un problema come quello degli antivirali, che normalmente invece non era stato studiato, perché veniva studiata l'applicazione del vaccino in diverse fasce d'età e quanto poteva essere di aiuto darlo ad alcune fasce piuttosto che ad altre, per considerazioni legate alla trasmissione eccetera, in cui non entro nel merito perché sono un po' tecniche, però diciamo la possibile valutazione dell'utilizzo dell'antivirale prioritizzandolo per fasce d'età non era ancora stato fatto mai da nessuno, e quindi questo ci ha consentito insomma di fare una cosa del tutto innovativa, che poi a livello internazionale ha avuto un riscontro molto positivo alla fine. Perché questo virus, come tutti gli altri virus, viene chiamato come H e poi N? Perché cosa stanno? Questo fondamentalmente perché tutti i virus influenzali presentano due antigeni sulla loro superficie, che sono l'antigene della emoaglutinina H e l'antigene della neuroaminidasi N. Sulla base delle diverse caratteristiche antigeniche di questi due antigeni vengono classificati con numeri diversi, quindi ecco perché si parla di H1N1, H3N2, H5N1, sono tutte sigle che individuano diverse tipologie di virus perché hanno diverse caratteristiche di questi antigeni di superficie. Perfetto. Senti Caterina, in che cosa differisce esattamente il vostro lavoro dai lavori che sono stati pubblicati su questo tipo di pandemia? Allora, fondamentalmente il nostro lavoro ha di innovativo il fatto che presuppone che in paesi in cui non ci sia uno stockpile, diciamo, sufficiente o comunque secondo quelle che sono le raccomandazioni del WHO, di una certa proporzione di popolazione da coprire con la terapia antivirale, presuppone la possibilità di ottimizzare l'utilizzo dell'antivirale dandolo per diverse fasce di età, a seconda di quella che sono le caratteristiche epidemiologiche del virus che circola. Quindi, per esempio, se si dovesse comportare come quello del 18, abbiamo dato delle indicazioni, quindi magari prioritizzare i giovani piuttosto, certo, non perché non siano altrettanto importanti, per carità, dal punto di vista etico non voglio fare considerazioni, però magari siccome la malattia colpisce più i giovani è chiaro che si cerca di darlo più ai giovani e di evitare di darlo alle persone più anziane, che risultano anche in qualche modo avere una protezione nei confronti di questo virus. Mentre se dovesse comportarsi come si è comportato il virus che ha causato la pandemia del 68, in questo caso sarebbe utile distribuirlo più su tutte le fasce di età, quindi dà delle indicazioni anche di quelle che possono essere gli interventi di sanità pubblica e di come ottimizzarli per ridurre l'impatto della pandemia, certamente aspettando che arrivi il vaccino, perché poi è questo quello che ci aiuta maggiormente a proteggere la popolazione, la vaccinazione. Però purtroppo, non essendo ancora disponibile il vaccino, bisogna cercare quanto più possibile di allungare il periodo, diciamo, del picco, in maniera tale da riuscire a vaccinare la popolazione, a proteggere la popolazione. Caterina, come abbiamo analizzato un pochino anche con Stefano, la difficoltà anche di questo lavoro è stata proprio sulla mancanza di dati, o almeno sui dati non proprio stabili. La pericolosità reale di questo virus che esce da questo lavoro o dei lavori che sono adesso collegati, qual è esattamente? Allora, la difficoltà reale è che sembra che il tasso di ospedalizzazione, quindi le forme complicate di questa influenza, sia molto simile all'influenza stagionale, e su questo dato sono abbastanza tranquilla, nel senso che viene fatto un monitoraggio molto attento dei casi e delle ospedalizzazioni che vengono effettuate, quindi sono assolutamente tranquilla. Il problema è sulla mortalità. Sulla mortalità, perché purtroppo definire quale sia il denominatore, cioè il numero totale di casi che si verificano, è molto difficile, perché questo è il limite di tutti i sistemi di sorveglianza. Di solito vengono all'attenzione soltanto i casi che hanno una sintomatologia più importante, però noi sappiamo che questa influenza può causare anche un semplice raffreddore senza febbre, e questi soggetti solitamente non si rivolgono nemmeno al medico, quindi è difficile definire quale sia il denominatore. E questo complica sicuramente quello che può essere il calcolo della mortalità legata a questo virus. Tuttavia, io sono tranquilla del fatto che moltissimi paesi stanno cercando di ottimizzare i loro sistemi di sorveglianza e di cercare di recuperare quanto possibile informazioni sui casi che si stanno verificando, e questo sicuramente ci porterà ad imparare moltissimo in questa fase, e spero ci possa portare ad imparare moltissimo in questa fase e a rispondere a domande che purtroppo non sono ancora chiare riguardo all'influenza, perché dal punto di vista scientifico ci sono ancora una serie di importanti parametri su cui si discute ancora tuttora, di trasmissibilità e di caratteristiche del virus, che sono cruciali, parametri che sono cruciali per l'ottimizzazione di questi modelli e per migliorare sempre di più questi modelli. Ovviamente, come i modelli per fare le previsioni del tempo, anche questi modelli hanno dei limiti, no? Perché applicano metodologie che sono abbastanza simili, e quindi di conseguenza è importantissimo e cruciale aggiornarli volta per volta, anche con le nuove conoscenze scientifiche che sono disponibili e che saranno disponibili dopo questa esperienza. Ricordiamoci che questa è la prima pandemia del nuovo millennio, quindi insomma spero che avremo gli strumenti per poterla descrivere nel modo più completo possibile. Caterina, l'ultima domanda che ti voglio fare è questa: visto che nel lavoro non viene analizzato lo scenario pandemico a seconda dei periodi, noi sappiamo che il virus è un pochino più virulento nel periodo invernale, non nel periodo estivo, che cosa succederebbe in Italia se non arrivasse l'antivirus, come stanno dicendo, intorno a ottobre-novembre, seguendo lo scenario un po' descritto da questo articolo? Allora, Sulla base del lavoro che abbiamo fatto, del lavoro scientifico che abbiamo fatto, siamo abbastanza tranquilli che grazie all'ausilio degli antivirali e delle misure di distanziamento sociale, quindi che ne so, se una persona non si sente bene, se può evitare di andare in giro e di andare per esempio in eventi di aggregazione dove ci sono tante persone tutte insieme, questo sicuramente aiuta a ritardare il picco e quindi aiuta a guadagnare tempo per aspettare che i vaccini vengano messi a punto. Si sta lavorando moltissimo per cercare di metterli a punto in tempo utile. Le industrie stanno lavorando molto per ottimizzare un prodotto che sia sicuro e valido per poter essere somministrato a tutti. Certamente ci sono una serie di interrogativi. La domanda che, per rispondere alla domanda che mi fai, purtroppo bisognerebbe avere la palla di vetro, cosa che non ho e quindi non posso risponderti, però ti dico che si stanno facendo tutti gli sforzi necessari per programmare tutti i possibili scenari, dal migliore al peggiore, in maniera tale da poter avere un quadro quanto più chiaro possibile di quelle che potrebbero essere le situazioni che si verranno a creare nel tempo. Riguardo alla stagionalità, ti dico che anche questo è uno dei grandi enigmi dell'influenza, perché essendo un virus non dovrebbe tenere conto di questi aspetti di stagionalità. Certo, c'è il fattore temperatura, ci sono una serie di fattori che possono spiegare questo fenomeno, però nello stesso momento il fatto che circoli un virus influenzale in questo periodo della stagione comunque ci fa pensare che forse le pandemie non risentono di questo aspetto della stagionalità, che invece sembra accompagnare il fenomeno delle epidemie normali stagionali di influenza. Anche questo può essere un'importante situazione da studiare proprio in questa fase, in questo momento. Come ti ripeto, ci sono una serie di interrogativi a cui ci aspettiamo che questa situazione possa dare delle risposte, visto che abbiamo oggi gli strumenti per poterlo fare. Caterina, con questa tua ultima risposta si conclude questa puntata e questa stagione di Caccia al Fotone. Io intanto ti ringrazio per la disponibilità, ti faccio un grosso in bocca al lupo per tutto il tuo lavoro, sperando che porti, come fino ad ora ha portato, a dei buoni risultati. E così saluto anche i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Caccia al Fotone e di Radio Città Fujiko. E quindi l'appuntamento è a settembre e l'augurio è, come al solito, di una buona scienza a tutti. Grazie ancora, Caterina. Grazie mille.